È stato Lello Rienzi, portavoce di Un Ponte Ferro, ad aprire la conferenza stampa dell'associazione, conclusasi alle 16.20 al Teatro Ambra di Ovinelli di Roma. Dopo i ringraziamenti alla stampa, Rienzi ha subito avvertito i giornalisti in sala che le due Simone non avrebbero risposto alle loro domande per rispettare il segreto istruttorio che vige su tutta la vicenda. Così la presenza delle due volontarie si è limitata a due brevi interventi. Quello di Simona Pari, che ha parlato per prima, è stato davvero striminzito. Ha ringraziato tutti, governo e Croce Rossa compresi, per il contributo dato alla loro liberazione. È toccato poi a Simona Torrette, che ha sommariamente ripercorso i 21 giorni di sequestro e rilascio, sottolineando più volte di aver ricevuto un trattamento dignitoso e rispettoso da parte dei sequestratori. Il compito di rispondere alle domande della stampa è toccato a Fabio Alberti, presidente di Un Ponte Per. Ha dichiarato di ritenere determinanti per il rilascio delle due ragazze le pressioni politiche, religiose e interne, senza accennare mai ai due canali di trattative, quello della Croce Rossa Italiana e quello dei servizi segreti. Su un possibile ritorno in Iraq, Alberti non si è sbottonato più di tanto. Dobbiamo valutare i tempi e i modi, ma aggiunge, oggi abbiamo un motivo in più per lavorare a sostegno e a fianco degli iracheni, e questo motivo è la riconoscenza per averci restituito le due Simone. Parla del sequestro come metafora della guerra che usa la violenza a scopi politici e del rilascio come un'altra strada, quella del dialogo che porta alla pace. Ma sui punti oscuri di questo sequestro anomalo l'associazione non ha chiarimenti da fare. Del misterioso riscatto non sa nulla. Ed esiste davvero la lista di cui parla Maurizio Scelli, il commissario straordinario della Croce Rossa, in cui le due Simone vengono indicate come elementi di spionaggio dall'intelligence statunitense? E se esiste, chi e perché l'ha consegnata agli iracheni? Alberti si limita a dichiarare che la sua associazione ritiene che il sequestro sia avvenuto perché le due ragazze sono cittadine italiane, e per il resto rimanda a Scelli, prodigo di dichiarazioni alla stampa, al contrario delle due protagoniste della vicenda, alle quali i giornalisti rivolgono ripetutamente domande. Ma le due ragazze replicano di non voler o poter rispondere. Adesso sono in balia delle emozioni, dice Simona Torretta, che sul finale si sbottona e dichiara di ritenere che i sequestratori facciano parte di un gruppo religioso moderato. Dopo la commozione, la festa di ieri, oggi è stato il giorno delle valutazioni e le dichiarazioni si fanno più caute. Probabilmente Simona Pari e Simona Torretta sono state le protagoniste di qualcosa più grande di loro. Dal Teatro Ambra Iovinelli, per Amisnet, Sonia Grieco.